Radio 24 Reportage. La NATO e la guerra digitale di Marco Magrini. Siamo a Tallinn, capitale dell'Estonia. Fra 2 mesi saranno passati esattamente 20 anni da quando questo paese ha conquistato, o meglio riconquistato, l'indipendenza dall'Unione Sovietica. Fatto sta che nel 2007, durante una disputa con la minoranza russa per via della rimozione di una statua dell'era sovietica, l'Estonia ha visto i computer del governo e della pubblica amministrazione andare letteralmente fuori uso per giorni e giorni, grazie a un cyberattacco coordinato che proveniva dalla Russia. L'anno seguente, e forse non a caso, la NATO ha fondato qui a Tallinn il proprio centro per la cyberdifesa. In occasione di un convegno internazionale sulla guerra elettronica, organizzato sempre dalla NATO, abbiamo visitato il centro e incontrato il direttore Ilmar Tam. Colonnello Tam, quanto è reale il rischio di un conflitto elettronico? Wearing uniform, I don't want to draw any scary pictures that. Io porto l'uniforme e non voglio tirare fosche conclusioni sui pericoli futuri del mondo digitale. Però dobbiamo essere anche chiari, la tecnologia si sviluppa senza sosta, migliorando l'economia e il benessere, ma può essere usata anche per fini ostili. Ci sono nazioni che usano la rete per promuovere le libertà civili, ma altre nazioni la usano in maniera opposta. Gli investimenti in armi digitali sono irrisori rispetto agli equipaggiamenti di un esercito convenzionale, carri armati, navi, aerei. Così diventa facile usare il cyberspazio militarmente, magari senza uccidere nessuno, ma creando pesanti danni, così come può essere una grande risorsa per lo spionaggio e per l'intelligence. This is a great source. Ma c'è un evento che ha cambiato d'improvviso lo scenario. La prima vera, mirata e distruttiva arma digitale della storia, che si chiama Stuxnet. È stata lanciata l'anno scorso contro il programma iraniano per l'arricchimento dell'uranio ed è riuscita perfino a centrare il bersaglio. Gli esperti riuniti al convegno della NATO sui conflitti digitali non hanno dubbi. Stuxnet è un malware, ovvero un software maligno, talmente sofisticato che dietro deve per forza esserci un governo. Seppur senza prove, tutti ovviamente puntano il dito su Stati Uniti e Israele, o l'uno o l'altro, o magari entrambi. Ma il fatto incredibile è che Stuxnet è in grado di prendere il controllo dei sistemi per l'automazione industriale. Come sa meglio di tutti Ralph Langner, un computer scientist tedesco, che per primo ha retroingegnerizzato il virus per guardarci dentro. So Stuxnet was a tremendous success in military terms. It was in termini militari Stuxnet è stato un incredibile successo. È costato poco, noi stimiamo 10 milioni di dollari, ed è riuscito a fermare il programma iraniano per l'arricchimento dell'uranio di almeno 2 anni. Se fosse stato fatto bombardando l'impianto, sarebbe costato 10 miliardi e avrebbe rallentato il programma iraniano solo poco più a lungo. Ma soprattutto, a quanto risulta, Stuxnet non ha fatto vittime, mentre un attacco convenzionale avrebbe facilmente innescato una guerra nel Medio Oriente, ben difficile da arginare. Quindi, con i virus digitali si possono colpire a distanza anche obiettivi strategici fisici, come ad esempio centrali elettriche, acquedotti e in teoria perfino i reattori nucleari. Così il Pentagono ha recentemente annunciato di essere pronto a colpire militarmente, quindi fisicamente, chiunque provochi un danno alle infrastrutture critiche americane anche attraverso la via elettronica. Peccato che la deterrenza magari funzionava bene ai tempi del confronto nucleare, ma è praticamente inutile nell'epoca del riarmo digitale. Abbiamo avvicinato Charlie Miller, un esperto di sicurezza digitale che ha lavorato anche per la National Security Agency americana, per chiedergli cosa ne pensa. Per me quell'idea non ha senso. Dal punto di vista tecnologico è praticamente impossibile attribuire l'origine di un attacco digitale. Per scoprirlo puoi forse ricorrere all'intelligence, ma se guardi soltanto i bit è sostanzialmente impossibile. Magari l'attacco origina dal tuo stesso paese, non puoi sapere da dove è partito. Magari è in un altro paese, oppure l'attacco viene fatto rimbalzare da un paese terzo per confondere le acque. Credo che occorra essere ben certi prima di sferrare una risposta militare. E siccome quella certezza non può esistere, per me tutto questo non ha senso. Alla conferenza della NATO sui conflitti digitali c'erano ovviamente rappresentanti di molti eserciti, incluso quello italiano. Ma c'erano anche rappresentanti del business e del sistema finanziario, che per via della cybercriminalità sono già tutti i giorni in guerra digitale, per difendere il loro network. Come Roberto Saracino, responsabile della sicurezza informatica di Unicredit, in tutti i 22 paesi dove il gruppo opera, che alla conferenza di Tallinn ha tenuto una relazione. In Italia ci sono circa 1 milione di botnet, ossia di macchine che sicuramente sono state violate e in questo momento possono essere governate da organizzazioni criminali. In questo contesto è molto importante per una banca realizzare delle soluzioni dal punto di vista della sicurezza informatica che possa proteggere il cliente nella sua relazione, diciamo, con la banca stessa. E pertanto è molto importante non fermarsi alla propria infrastruttura informatica, ma è molto importante costruire qualcosa senza naturalmente andare ad entrare nel perimetro della macchina del cliente, perché del cliente nessuno ci deve mettere le mani, però costruire qualcosa che possa in qualche modo tutelare il cliente nelle sue operazioni finanziarie con la banca stessa nel momento in cui esso sta lavorando da una macchina che possa essere violata. A metà strada fra i criminali che usano internet per fare soldi e gli eserciti che lo usano per la difesa e l'offesa cibernetica c'è lo spionaggio. Sta a metà perché lo spionaggio digitale può portare sia tornaconti economici che strategici. Come racconta Mikko Hipponen, capo della tecnologia della finlandese F-Secure, anche quello è in evidente crescita. Negli ultimi 6 anni abbiamo monitorato attacchi di spionaggio apparentemente provenienti dalla Cina e mirati sull'Occidente. Lo spionaggio si è mosso verso il mondo digitale per un motivo semplice. Oggi le informazioni non sono più nel mondo reale. Le informazioni, il vero obiettivo dello spionaggio, sono nei computer e nei network. Ma che prove abbiamo che i governi che si dotano di un sistema di difesa digitale stiano anche preparando un sistema di offesa? In altre parole, non è esagerato dire che c'è un riarmo in corso, un riarmo digitale? Parlo spesso con ufficiali di vari eserciti di tutto il mondo. Sono sempre contenti di parlare di come si stanno attrezzando alla difesa digitale, ma quello di cui non parlano mai è di come loro stessi si preparano ad attaccare, costruendo anche armi digitali di offesa. Però è legittimo assumere che qualunque Stato costruisca la difesa, costruisca anche l'offesa. Siamo già entrati nell'era del riarmo digitale. Secondo un recente report di Chatham House, le nazioni che stanno costruendo armamenti digitali sarebbero oggi 36, quindi molte di più delle prevedibili Cina e Stati Uniti, Israele e Russia. Colonnello Tam, ne state preparando anche voi della NATO? Yes and no. When we are planning and conducting the sì e no. Quando prepariamo ed eseguiamo le esercitazioni, parte integrante delle esercitazioni è proprio lo studio dei mezzi e dei metodi di attacco digitali disponibili. In realtà è più o meno quel che affrontiamo ogni giorno. È solo una questione di aumentare la consapevolezza e la capacità. And those are pretty much what we are facing every day. It's just a question of awareness and question of skill. Così, da oggi, la guerra digitale non appartiene più ai libri di fantascienza. È solo la spiacevole antica tradizione del conflitto, del confronto internazionale, adattata al mondo interconnesso del XXI secolo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.